Before we continue with the dialogue, here are three new words and phrases. Ce n'è uno. There is one. Ce n'è uno. Lontano. Far. Lontano. A piedi. On foot. A piedi. Here's that new language again. Ce n'è uno. Lontano. A piedi. Now listen to this brief dialogue as Lorenzo asks the receptionist for a cash point. Scusi, c'è un bancomat qui vicino? Sì, ce n'è uno in via dei Cimatori. È lontano? No, è a 5 minuti a piedi.